GR24, il sole 24 ore. La strage ferroviaria di Viareggio, chiesto il rinvio a giudizio per 32 persone e 9 società. Ultimo atto del governo Monti, tra poco la fiducia alla legge di stabilità. Berlusconi contro Monti dice solo un piccolo protagonista della politica. Ancora assegno più per le esportazioni, quelle verso il mondo crescono dell'11% in un anno, ma calano ancora le vendite al dettaglio in Italia. Gli ottavi di Champions League, il Celtic per la Juventus, il Barcellona per il Milan, i risultati del sorteggio. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. La procura di Lucca sta notificando le richieste di rinvio a giudizio per 32 persone e 9 società indagate nell'inchiesta sulla strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno del 2009 che provocò 32 vittime. Tra le persone per le quali i magistrati chiedono il rinvio a giudizio c'è anche l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Questa è una notizia arrivata poco fa in redazione ed ora la politica. Iniziamo dall'Aula del Senato dove si vota la fiducia alla legge di stabilità. I dettagli da Andrea Viali in diretta da Roma. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. A Palazzo Madama sono ancora in corso le operazioni di voto sulla fiducia chiesta dal governo sulla legge di stabilità. Come dicevi, il risultato dovrebbe arrivare fra circa mezz'ora, il testo poi passerà alla Camera. Si vota sul maxi emendamento dell'esecutivo, un articolo unico con oltre 554 commi, e questo anche a testimoniare un po' l'assalto alla diligenza che c'è stato nei confronti di questo provvedimento, nel quale sono state inserite molte novità in Parlamento fino a trasformarlo, possiamo dire, in una via di mezzo tra una vecchia finanziaria e un decreto mille proroghe. Dal voto non dovrebbero arrivare sorprese perché dopo aver rallentato l'esame della legge nei giorni scorsi anche il PDL ha infatti assicurato che voterà a favore. Passata la fiducia, sempre al Senato si riunirà il Consiglio dei Ministri per approvare la nota di variazione del bilancio e dare il via libera definitivo anche al decreto legislativo sull'incandidabilità dei condannati che potrà quindi entrare in vigore già dalle prossime elezioni. Ci sono invece problemi alla Camera, a Montecitorio, sul cosiddetto decreto taglia firme. Il testo infatti è arrivato in aula senza un accordo fra i partiti e così si è deciso di rinviare le votazioni al primo pomeriggio. Ora sono in corso trattative tra le forze politiche alla ricerca di un'intesa. Per ora è tutto, Enrico. Grazie ad Andrea Viali. Nel dibattito politico intanto cambiano le cose ancora nuovamente. Di fronte ad una candidatura probabile e imminente di Mario Monti, Silvio Berlusconi cambia strategia e attacca il professore. Ma partiamo dall'unica cosa certa, potremmo dire la data del voto. Alessandra Scheppis in diretta da Roma. Sì, e così si sta delineando un calendario più preciso per la fine della legislatura e per la data delle elezioni. Tra venerdì e sabato dovrebbe arrivare via libera definitiva la legge di stabilità, poi immediatamente dopo le dimissioni del Premier nelle mani del Capo dello Stato che firmerà il decreto di scioglimento delle Camere. Tutto questo in vista del voto che si dovrebbe tenere ormai con altissima probabilità il 24 e 25 febbraio. Quanto a Monti, è prevista una conferenza stampa tra sabato e domenica. Il Premier uscente traccerà un bilancio dell'attività di governo, ma non c'era anche con contorni più precisi le modalità della sua discesa in campo, chiarendo ad esempio se ci sarà una vera e propria sua candidatura a premier. Intanto i centristi lavorano su programmi e liste, è probabile che si vada con due o tre liste alla Camera e con un listone unico al Senato, scelta obbligata vista la soglia di sbarramento. Ma contro la discesa in campo del professore si scaglia Silvio Berlusconi. Monti diventerebbe un piccolo protagonista, dice il Cavaliere, non sarebbe nel suo interesse. Berlusconi che poi attacca la politica economica del governo, che a suo dire ha fatto salire la pressione fiscale di due punti e che si dice pronto ad una sfida in TV con Monti e Bersani. E da Roma è tutto. Il punto di Stefano Folli. Come era ormai previsto, Mario Monti guiderà una coalizione di sigle vecchie e nuove che si presentano alle elezioni in nome dell'Europa per garantire continuità con la linea seguita fin qui dal governo cosiddetto tecnico. È una svolta, una novità per la politica italiana ed è anche un tentativo di colmare il vuoto aperto nel centrodestra dalla profonda crisi del berlusconismo. Naturalmente le elezioni non saranno una passeggiata per Monti, che in quanto senatore a vita non sarà candidato al Parlamento. Dovrà combattere su due fronti e soprattutto dovrà riuscire a ottenere sufficienti voti per essere decisivo nella prossima legislatura. In quel caso si può immaginare un'alleanza fra il centro di Monti e la sinistra di Bersani. Oggi avversari, certo, ma in fondo consapevoli che l'intesa fra loro sarà poi obbligata se i numeri la renderanno possibile. Sul piano politico questo centro-centrosinistra è senz'altro la piattaforma più realistica per il futuro governo del paese, nel segno dell'Europa, appunto. Cambiamo argomento. Continua il buon andamento delle esportazioni italiane. Secondo i dati Istat, a novembre sono cresciute le esportazioni verso i paesi extraeuropei con un rialzo dell'1% rispetto a ottobre e dell'11% su base annua. Le importazioni segnano una forte contrazione con una discesa mensile del 3,8% e un meno 9,3% rispetto ad un anno fa. Intanto sempre l'Istat comunica che le vendite al dettaglio in ottobre sono calate dell'1% e si tratta del quarto calo mensile consecutivo. La crisi continua a colpire le banche italiane. Secondo un rapporto dell'ABI presentato questa mattina, gli istituti italiani si avviano a ridurre il personale di 14-15.000 unità nel prossimo triennio. La redditività del settore bancario è ai minimi storici e quest'anno gli utili dovrebbero risultare solo debolmente positivi. E a proposito di numeri, un'occhiata alla Borsa di Milano, che è sostanzialmente invariata in questo momento. Il FTSE MIB segna un leggero rialzo, più 0,05%. Cambiamo argomento, adesso parliamo della Corte del Kerala, che ha accolto oggi la richiesta di licenza natalizia per i due militari italiani trattenuti in India da febbraio. Saranno a casa per Natale Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due marò trattenuti in India dallo scorso febbraio perché accusati dell'omicidio di due pescatori scambiati per pirati. Dopo due rinvii, l'alta corte di Kochi, nello stato del Kerala, ha accettato la richiesta dei due fucilieri del reggimento San Marco di trascorrere le festività natalizie in Italia, una licenza di 2 settimane a partire dal momento in cui lasceranno l'India. Immediata la soddisfazione del ministro degli esteri Giulio Terzi, che ha fornito alle autorità indiane tutte le garanzie richieste per assicurare il rientro dei marò al termine delle 2 settimane. È con grande sollievo che abbiamo colto questa notizia. Una notizia che dà prova delle sensibilità indiane per i valori più sentiti del popolo italiano e della nostra gente in occasione di questa importante festività natalizia. Per la concessione della licenza, la Corte ha imposto all'Italia una garanzia finanziaria di 60 milioni di rupie, pari a 826 mila euro, e una dichiarazione giurata dell'ambasciatore italiano in India e del console generale di Mumbai. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13:08 minuti. Vediamo una notizia di poco fa arrivata dalle agenzie, che arriva dal Tribunale di Milano. Il PM di Milano, il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, ha chiesto un anno di reclusione per Silvio Berlusconi. Stiamo parlando del processo Unipol. Più tardi nel corso del giornale radio avremo maggiori dettagli. La notizia è stata battuta proprio poco fa con pochi dettagli al momento. Adesso parliamo di Marchionne, che sta parlando sta parlando a Melfi e ha detto: il nostro è un piano coraggioso. L'evento di oggi qui a Melfi è il primo passo concreto. È stata una decisione non facile, non scontata, in un mercato in caduta libera. Sentiamo le parole di Marchionne. È nelle difficoltà che occorre avere visione, riprendere in mano la situazione e ripensare a volte anche a se stessi. All'inizio vi ho parlato di una scommessa che stiamo facendo sull'Italia, ma non si tratta di una strategia azzardata. Sul piatto mettiamo impegno, investimenti, la determinazione a raggiungere i risultati che ci ha sempre guidato. E mettiamo le capacità tecniche dei lavoratori italiani. Abbiamo intenzione di toglierci dalla mischia dei marchi generalisti ed andare a competere nella parte alta e meno affollata del mercato. È una scommessa che facciamo sapendo che ne abbiamo la forza e che possiamo contare su alcuni vantaggi concreti. Il primo è il fatto che possiamo mettere in gioco tutte le nostre competenze ed eredità migliori, perché abbiamo in casa il prestigio e la qualità di chi, come la Ferrari, ha definito l'alto di gamma in tutto il mondo. Secondo, il fatto che l'insieme di Fiat e Chrysler ci ha dato la capacità di sviluppare negli ultimi 3 anni architetture e motori che saranno all'avanguardia per il segmento premium. E il terzo, il fatto che la Fiat oggi, grazie a Chrysler, a una presenza globale che ci dà accesso tanto ai mercati del Nord America che a quelli asiatici. Marchionne era a Melfi per presentare gli investimenti, ha parlato di un investimento complessivo della Fiat nello stabilimento che si trova in provincia di Potenza di 1 miliardo di euro. Sarà l'unico stabilimento al mondo a produrre il piccolo SUV della Jeep a partire dal 2014. Ha confermato poi gli obiettivi del gruppo Fiat per il 2012, utile dalla gestione ordinaria di circa 3,8 miliardi e un utile netto di 1,2 miliardi. Adesso continuiamo con le notizie che arrivano dal mondo. L'ex patron del fallito colosso petrolifero russo Yukos, Mikhail Khodorkovsky, e il suo socio Lebedev usciranno dal carcere nel 2014. Oggi infatti un tribunale di Mosca ha ridotto la loro pena di 2 anni da 13 a 11 applicando la riforma dei reati economici. La Corte Penale di Bangkok ha ordinato l'estradizione del finanziere italiano Vito Roberto Palazzolo, arrestato all'aeroporto della città thailandese alla fine di marzo e considerato una delle menti oscure dietro le grandi manovre di riciclaggio di denaro della mafia. Dopo anni di latitanza all'estero potrebbe essere estradato in Italia Vito Roberto Palazzolo, il finanziere siciliano accusato di aver riciclato i soldi di Cosa Nostra. La Corte Penale di Bangkok, dove Palazzolo si trova agli arresti, ha infatti accolto la richiesta dell'Italia a far rientrare il latitante nel nostro paese, dove deve scontare una condanna a 9 anni di carcere per associazione mafiosa. Coinvolto negli anni Ottanta nella Pizza Connection, Palazzolo, dopo aver scontato 3 anni di carcere per narcotraffico, è riparato in Sudafrica, dove si faceva chiamare Robert von Palace e dove ha costruito un impero economico e condotto una vita da nababbo. Lo scorso mese di marzo Palazzolo però è stato intercettato a Hong Kong e poi a Bangkok, dove l'arresto è scattato per violazione delle leggi thailandesi sull'immigrazione. Da qui l'azione della Farnesina per l'estradizione. Adesso la sua difesa sta valutando un rientro volontario di Palazzolo e forse anche una sua collaborazione. Palazzolo, dice infatti il suo avvocato Baldassare Lauria, potrebbe far luce su molti misteri e sui suoi rapporti con istituzioni ed esponenti di vari enti italiani. L'esca per trattare con la magistratura è stata lanciata. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I rapitori dell'ingegnere catanese Mario Belluomo e i 2 suoi colleghi russi in Siria avrebbero chiesto 530.000 euro di riscatto per la loro liberazione. 2 giorni fa il Ministero degli Esteri russo aveva già parlato della richiesta di un riscatto fatta alla Mishio, l'acciaieria privata siriana per la quale i 3 lavorano, senza aggiungere però altri dettagli. La notizia viene invece oggi diffusa e commentata dal quotidiano russo Kommersant, che cita una fonte diplomatica a Mosca. Il graffio di Dario Ceccarelli. Anche i Maya con una lista speciale appoggeranno Mario Monti e Monti li ringrazia. Destra, sinistra, su, giù, centro, fine del mondo con pane giramento. La fine del mondo come taglio alla spesa è un buon inizio, ma si può fare molto di più. E a proposito della fine del mondo, anche i bookmaker non hanno potuto esimersi dai pronostici. Per gli allibratori, però, più che di apocalisse, si tratta di una bufala colossale. Allora, gli allibratori quotano solo 501 che la profezia si avveri, mentre si punta decisamente sulla mancata apocalisse giocandola a 1, cifra ovviamente simbolica. Naturalmente non si capisce poi, nel caso di fine del mondo, come si faccia poi a incassare la vincita. Restando in tema, chiudendo questa prima parte di GR24, vi ricordiamo che Radio 24 dedica una serata speciale alla notte prima della fine del mondo, dalle 21 a mezzanotte, in diretta Federico Taddio, Massimo Gramellini e il filosofo della scienza Telmo Pievani accompagnano gli ascoltatori in una lunga diretta verso la presunta apocalisse tra ironia, attualità, scienza e superstizione. Quindi appuntamento questa sera dopo il GR delle 21. C'è Giovanni Capuano in studio. Ciao Giovanni, buongiorno. Sì, ciao Enrico. Beh, non poteva andare peggio. Al Milan ha pescato la squadra più forte tra quelle a disposizione nell'urna di Nyon. Ha pescato il Barcellona, che già 6 mesi fa è significato per il Milan la fine dell'avventura europea. Milan contro Barcellona, 20 febbraio l'andata a San Siro, il ritorno al Camp Nou il 12 marzo ed è una sfida durissima, perché già il Milan un anno fa uscì e aveva Ibrahimovic e Thiago Silva e oggi si presenta assolutamente più debole. debole rispetto alla passata stagione. È andata meglio alla Juventus, che del resto aveva chiuso per prima il suo girone, ha pescato nell'urna il Celtic Glasgow, andata in Scozia il 12 febbraio, ritorno a Torino il 6 marzo. Juventus che è favorita in questo ottavo di finale, che ha presentato anche due sorteggi di altissimo livello: la sfida tra Arsenal e Bayern Monaco e soprattutto quella tra Real Madrid e Manchester United, che vale da sola una finale. Gli altri accoppiamenti: c'è Galatasaray, Schalke 04, Porto Malaga, Valencia, Paris Saint-Germain e Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund. A partire dalle ore 14 invece il sorteggio dell'Europa League. Bene, quindi più tardi, durante il programma Tutti Convocati, Giovanni ci darà i maggiori dettagli. Adesso cambiamo decisamente argomento. Sono iniziate questa mattina le perquisizioni in alcuni casolari vicini alla villa della famiglia Calevo, nell'ambito delle indagini sul rapimento dell'imprenditore spezzino Andrea Calevo. Sentiamo maggiori particolari in questo servizio. Il procuratore Michele Di Lecce parla di indizi utili ricavati dagli ultimi accertamenti e prospetta la possibilità che le indagini stiano per approdare ad una svolta. Ma intanto i giorni e le ore passano senza che trapelino elementi certi sulla sorte di Andrea Calevo, rapito domenica sera nella sua villa di Lerici. Da allora nessuna richiesta di riscatto, nessuna risposta all'appello lanciato dalla famiglia. Il sequestro a scopo di estorsione resta la pista prevalente, ma il passare del tempo senza un segnale e una serie di circostanze, a partire dalle modalità dell'irruzione nella villa e dagli spostamenti dell'auto dell'imprenditore nelle ore successive al rapimento, indeboliscono l'ipotesi del piano premeditato nei dettagli. Gli indizi di cui ha parlato il procuratore di Lecce sarebbero incentrati sulla figura di un uomo sospetto, notato nei pressi della villa di Calevo già domenica pomeriggio, e su una traccia ricavata dagli esperti del RIS sull'auto dell'imprenditore ritrovata lunedì mattina semisommersa sul Magra. E da oggi, lungo il fiume, al confine tra Liguria e Toscana, sono tornati ad immergersi i carabinieri sommozzatori. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Per quasi 25 anni si è finto cieco, percependo pensione di invalidità e sussidio di accompagnamento. Un 63enne di Rescaldina, in provincia di Milano, è stato scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Milano, che hanno ripreso l'uomo intento a curare l'orto, raccogliere frutta, attraversare la strada e salire le scale senza alcun aiuto. Stessa sorte per una donna di Marsala, in provincia di Trapani, tradita dalla sua passione per le carte, scoperta grazie ad una segnalazione al 117, il numero della Guardia di Finanza. Implicati nella vicenda anche quattro medici che avrebbero prodotto falsa documentazione. Si trova agli arresti domiciliari il consigliere regionale della Campania Massimo Iannicello del PDL. Secondo l'accusa avrebbe percepito illecitamente un rimborso di circa 64.000 euro. E adesso parliamo di una vicenda di cui si sta discutendo molto, quella delle nuove autorizzazioni per le sale da gioco per videopoker. Via libera nella notte dalla Commissione Bilancio al subemendamento presentato da due senatori del PDL, Gilberto Picchetto Fratin e Anna Cinzia Bonfrisco, che anticipa al 1 gennaio 2013 l'entrata in vigore della norma che prevede la gara per 1000 nuove sale da poker. Ma, sottolinea il direttore dell'Agenzia dei Monopoli di Stato, manca comunque l'emanazione di un regolamento specifico. E intanto la discussione generale sulla fiducia alla stabilità al Senato naturalmente si infiamma su questa questione. Si dice contrario a questa norma Cesare Guerreschi, presidente della Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive. Lo ha intervistato Anna Marino. Non era il caso di aprire 1000 sale in questo momento, non è il momento giusto, anche perché in molte regioni italiane si stanno facendo delle cose piuttosto importanti, vedi in Alto Adige, che può essere anche criticata la cosa, però si stanno facendo delle cose concrete. Non ne sentivamo il bisogno di 1000 sale in più aperte, è stata un po' una presa di mano, ecco, senza che nessuno sapesse niente, senza essere consultati nessuno, neanche gli esperti. Mi dispiace soprattutto per il decreto Balduzzi, che comunque, anche se non è una legge completa, aveva messo un certo ordine in questo immenso caos che era il gioco d'azzardo patologico. Da una parte le ragioni di bilancio, e comunque accompagnato anche da un prelievo maggiore sulle slot machine, questo può essere una compensazione? Ma sì, penso di sì, che sicuramente sarà una compensazione, perché prelevando di più dalle slot machine è ovvio che poi lo Stato incasserà di più, però questo non giustifica poi tutto il resto.

ovvero che non voglio più lavorare con loro. Ma no, ma questa cosa è uscita sul giornale, non capisco da dove arrivi. Cioè, in conferenza ieri mi hanno chiesto cosa farò dopo e io ho semplicemente detto non lo so, ne parliamo a gennaio, perché intanto vediamo come va questo, vediamo prima se i soliti idioti andranno avanti e poi io capirò cosa fare, perché insomma parlare già di un terzo film senza sapere cosa incassa questo mi sembra un prematuro. Mettere d'accordo Vasco e Ligabue? Ci sono riusciti in qualche modo gli emiliani controtempo. Per il singolo Rock sulla strada hanno fatto suonare insieme le due chitarre storiche dei due rocker, Federico Poggipollini e Maurizio Solieri, il leader dei controtempo Marco Spaggiari. Guarda, è stata una collaborazione artistica proprio, molto bella, molto che nasce proprio nella nostra zona, la nostra terra emiliana, no? Noi siamo praticamente equidistanti tra la casa natale di Vasco e quella di Ligabue, no? E siamo cresciuti respirando questo tipo di rock e questo tipo di sound che da quando eravamo ragazzi sembrava arrivasse da chissà dove, poi in realtà arrivava vicino a casa nostra. Solieri l'abbiamo conosciuto in un evento quest'estate a Modena molto grosso e è nata insomma una bella stima e gli abbiamo proposto questa cosa insieme a Fede che avevamo conosciuto in questi giorni. Ci è venuta questa pazza idea e come alle volte succede nei nostri progetti dei controtempo, da Bud Spencer a Terence Hill in poi, magari le cose impossibili ci diventano vere. Con tanto lavoro è stata una cosa bellissima, è un sogno che si realizza, una collaborazione molto molto rock, molto molto artistica. Ed è tutto per il GR Spettacoli, da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.